Passati a manovrare automezzi, è morto all'interno dello stabilimento del nuovo pignone di massa, travolto dalla gru con la quale lavorava. Dentro, dalla mano del mare. Il comandante avanza e niente si può fare. Vuole una morte, la vuole affrontare. C'era un uomo che si svegliava prima che si fosse destato fratello sole, quando ancora il buio avvolge ogni casa e protegge il riposo dei suoi abitanti. L'uomo saliva in macchina, girava più volte la chiave, aspettando che il motorino d'avviamento facesse il suo dovere ed interrompesse il sonno dei pistoni nel cuore del motore. Attendeva invano che l'abitacolo del suo autoveicolo avesse raggiunto una temperatura sufficientemente alta da permettere la sopravvivenza umana e si avvicinava pian piano al posto di lavoro. Il luogo che lo vedeva sudare, faticare, trasformare la sua energia vitale in movimenti utili a produrre beni e servizi, come si legge nei libri scolastici di diritto. E non è poi così importante che quell'uomo facesse partire trapani, montacarichi, presse, betoniere, carri ponte, martelli pneumatici, se accendesse monitor di computer, saldatori, macchine per il caffè, se spalancasse celle frigorifere o portelloni di camion. Quell'uomo passava comunque buona parte della sua giornata a lavorare, pensando che ogni oggetto che le sue mani avrebbero forgiato al tornio, ogni cassa che le sue braccia avrebbero sollevato, ogni busta timbrata, ogni pacco consegnato a destinazione, insomma, il frutto del suo lavoro gli avrebbe permesso di portare a casa uno stipendio decente. Beh, decente, diciamo almeno sufficiente a sopravvivere. E perché tra le rate del mutuo della casa, l'auto ridotta ormai a un rottame, i libri di scuola per i figli, il telefonino per sua moglie, il televisore al plasma. Ma certo, avrebbe potuto partecipare ad un quiz televisivo, uno di quelli in cui un presentatore vestito bene ti fa delle domande e se rispondi giusto ti regalano dei soldi. Magari avrebbe portato a casa qualche migliaio di euro. Ma non di rado si era ritrovato di fronte al televisore con la faccia da pesce lesso, visto che spesso non capiva neanche le domande. Lui non aveva potuto studiare, che il mondo del lavoro lo aveva ingoiato ancora minorenne. Figuriamoci se aveva ora il tempo di farsi una cultura. Leggere, guardare dei film, non aveva né il tempo né tantomeno la voglia. E poi tutto quello che c'è da sapere lo si può sapere dalla televisione. Quella gente è così seria, mica si metterà a inventare le favolette. Avrebbe potuto far partecipare i suoi figli al concorso a premi. Loro andavano a scuola, studiavano, conoscevano le risposte a gran parte delle domande. Già, i figli. L'uomo lavorava 10, 11, anche 12 ore al giorno, soprattutto per loro. Perché studiassero, perché ottenessero quel benedetto pezzo di carta, perché non finissero pure loro in una fabbrica a lavorare agli ordini di qualche capo reparto troppo esigente. E con la crisi del lavoro che c'è, sai quando lo trovano un posto di lavoro fisso, un posto di lavoro rispettabile. Già, i figli che grazie all'eccellente impegno del padre sul posto di lavoro avevano tutto. Vestiti, motorini, computer, serate in discoteca. Grazie sempre all'eccessivo impegno del padre sul posto di lavoro, non avevano in casa una figura paterna che seguisse e che aiutasse la loro crescita. Già, i figli. I figli che, al funerale del padre, erano vestiti con abiti eleganti, di nero, ben pettinati, appena rasati, proprio come avrebbe voluto vederli lui. Si seppe quasi subito che il padre era morto sul lavoro perché si era spaccato in due l'asse di legno su cui stava camminando e lui era precipitato giù dal ponteggio. Un volo di 10 metri. Niente funi di sicurezza. Niente caschetti di protezione. Nessuna corda. Senza rete. Proprio come gli acrobati al circo. Ah, il proprietario dell'impresa edile li avrebbe dovuti cambiare da tempo quei maledetti tavoloni, ma tra tasse, assunzioni, contributi, le spese erano sempre troppo alte e si cercava di risparmiare in qualche modo. O forse il padre era morto sotto un carico sospeso che si era sganciato da una gru. O lo aveva fulminato la corrente elettrica. Forse la stanchezza lo aveva tradito. E la stanchezza aveva portato con sé la distrazione. O magari stava semplicemente pensando al futuro dei suoi figli. Già, i figli. Ora sono tutti e due in una cella del carcere di Rebibbia, dopo che hanno piazzato un ordigno in un corridoio del palazzo in cui ha sede il Ministero del Lavoro. Una bomba che è esplosa, sì, ma non ha mietuto vittime. Vetri rotti, calcinacci, alte bruciature scure sui muri, tutte le bugie dei giornalisti, ma nessuna vittima. Perché a quell'ora erano le 10 in punto del mattino. In quell'ufficio ancora nessuno aveva cominciato a lavorare. Dovrebbero uscire fra qualche giorno per buona condotta, in regime di libertà vigilata. Così potranno andare a trovare la madre per il suo compleanno. Ma questa è un'altra storia. Ripeteva la donna prima di addormentarsi per effetto delle 20 gocce di Valium della cena. Ora si trovava bene lì dentro, in mezzo a tutte quelle persone. Un po' strane, in verità, ma almeno non le facevano troppe domande sulla sua filastrocca. Non aveva molte visite. Ogni tanto le dicevano che i suoi figli stavano bene, che le mandavano i saluti. Ma ormai non li vedeva da tempo. Chissà se si sarebbero ricordati del suo compleanno. Ambaraba, ambaraba, il dottore dove sta? Il dottore arrivava puntuale ogni volta che lei si metteva a cantare più forte. Arrivava con l'iniezione di Valium per calmarla, per far sì che non pensasse al marito. Tutto incominciava così, tra l'ambaraba, il cicci, forse tra le 3 civette sul comò, cominciava a sentire un urlo. Dapprima lontano, Poi sempre più forte, sempre più vicino, fino a che non lo sentivo uscire dalla sua stessa testa e rientrare in un orrendo feedback dalle orecchie. Allora lei cantava più forte, cercava di coprire quella voce che gridava, ma più cantava, più il suono si faceva acuto e il suo ambarabà diventava a sua volta un urlo lancinante. Allora arrivavano gli infermieri a fare la puntura perché si calmasse. «Sente le voci», dicevano. «Non sono le voci», pensava la donna mentre il farmaco nelle vene la tranquillizzava. «È una voce. È la voce di mio marito. Voi non potete riconoscerla. Non lo avete conosciuto. Ma io sono stata con lui per 29 anni. 3 anni di fidanzamento. 26 anni di matrimonio. Lo riconosco. Anche se non è più qui. Con me. Ambarabacicicocò», cantilenava il giorno del funerale di suo marito, senza lacrime, senza singhiozzi, solo quella filastrocca che aveva cantato ai suoi ragazzi quando erano ancora dei bambini. I colleghi di suo marito, le facce scure, gli occhi lucidi dietro gli occhiali da sole, oscillanti tra la quieta vergogna per la sensazione di scampato pericolo e il tetro pensiero per il prossimo corteo funebre. A piedi, con tutti gli altri, o nel posto d'onore. Avevano già visto delle vedove impazzire, sì, ma di dolore. Si strappavano i capelli, urlavano, qualcuna si era anche gettata sulla bara e non voleva che la seppellissero, ma quell'ambaraba riusciva a straziare le viscere. Ben più delle lacrime e delle urla. Aveva continuato a ripeterlo, continuamente, senza sosta, anche quando l'aveva raggiunta il dottor geometra, cavaliere, che le portava le sue più sentite condoglianze per quello che è successo. Lei aveva continuato con le sue civette e il suo comò. Ma in quell'occasione, quando si era trovata di fronte il dottore, aveva ripensato a tutte le volte che suo marito le aveva parlato delle condizioni del suo lavoro. Orari massacranti, turni infiniti, straordinari pagati di rado e scarse misure di sicurezza. E quell'incidente di cui era rimasto vittima il suo collega. Ambarabacicicocò. Per lei tutto era cominciato all'ospedale, nella camera ardente. Il dottor geometra cavaliere le aveva telefonato di persona in quanto direttore di quel cantiere. Le aveva detto che suo marito aveva avuto un incidente, ma il dolore gli aveva impedito di comprendere che cosa gli fosse successo davvero. E quando lo aveva visto lì, ben vestito, come si agghindava solo in rarissime occasioni, l'aveva assalita l'immagine di suo marito che precipitava dall'impalcatura e aveva sentito per la prima volta quell'urlo. Era scappata, fuggita dall'obitorio, correva tra i corridoi dell'ospedale, i parenti la inseguivano, cercavano di fermarla, ma lei non sentiva altro che quell'urlo assordante. Finché non arrivò per caso nel reparto di ostetricia. E lì, improvvisamente, una voce aveva coperto l'urlo. Era la voce di una madre che sussurrava la filastrocca al figlioletto appena nato. Ambarabà, cici. La flebile filastrocca le accarezzò la testa. Lei si fermò di colpo, si accovacciò di fronte alla porta della camera da cui veniva il canto e si addormentò. Quando la svegliarono in un primo momento non capirono che cosa bisbigliasse, ma presto la nenia diventò chiara. Che facevano l'amore con la figlia. E proprio dalla figlia del dottore era andata, al suo matrimonio. Come abbiamo detto, il dottore era in realtà un dottor geometra cavaliere, ma nella filastrocca era stato abbreviato per esigenze di metrica. La figlia, invece, era proprio la figlia. E il giorno del suo matrimonio, quando 8 pinguini incravattati avevano portato al suo cospetto 2 o 3 metri quadri di torta mimosa, aveva sentito canticchiare tra le note della marcia nuziale una strana filastrocca che presto avrebbe imparato. La donna, vestita di nero, si era avvicinata fiera al tavolo. Aveva bevuto dalla coppa di champagne della sposa. Si era infilata una mano sotto la lunga gonna nera. Si era tolta le mutande. Si era piegata proprio sopra il calice vuoto. E lo aveva riempito di piscio. E in realtà il dottore non si ammalò. In compenso, la figlia svenne. La donna venne presa con la forza e immobilizzata, inutilmente, visto che era rimasta tranquilla per tutto il tempo. Venne chiamata la polizia, che la portò immediatamente al commissariato, e proprio alle domande del poliziotto lei interruppe per la prima e ultima volta la sua filastrocca. Ambarabà, cicicocò, tre civette sul... Non crede, disse alla gente, che qualcuno, ogni tanto, dovrebbe bere il suo calice amaro al posto della solita coppa di champagne. Che facevano l'amore con la figlia. Per il rifacimento della facciata del palazzo dei Cristiani, sepolto sotto una montagna di pietre, ferito senza gravi conseguenze. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Say this love is best. Che cosa crede che penseranno di me? Che io sia cieco? Quando testimonierò che non ho mai letto, né tantomeno visto, la relazione della Commissione Interna sulla Sicurezza. No, proprio no. Mai vista. C'era scritto che mancavano i caschetti di protezione. Le funi di sicurezza. Addirittura mancava la cassetta del pronto soccorso. No, no, mai visto niente. Non ho mai visto quella relazione. Figuriamoci se ho potuto vedere che finiva nel tritadocumenti. Certo che no. Non ho visto quei fogli entrare in quel marchingegno e uscire in tante striscioline sottili. Non ho visto i delegati sindacali entrare indignati nell'ufficio della direzione ed uscirne a capochino, con lo sguardo rivolto verso il basso, fisso tra i loro stessi passi. Semplicemente non ho visto. Forse stavo inviando le mail del dottore o stavo aggiornando la sua agenda. Ah, il fax. Sicuramente stavo cercando di far funzionare il fax. Si blocca in continuazione. Sarebbe il caso di chiamare il tecnico o di comprarne direttamente uno nuovo. Probabilmente penseranno che io sia anche sordo se dirò che non ho mai sentito una parola di ciò che si diceva negli uffici della direzione. Figuriamoci poi delle minacce. Qualcuno avrebbe detto al personale di non esagerare con le proteste, che chi pensa troppo ai suoi presunti diritti... Sì, proprio così, presunti diritti. Pensa poco al suo lavoro. No, no, non ho sentito nulla di tutto ciò. Non ho sentito minacce, ricatti, né strani accordi con alcuni operai per farsi comunicare i nomi dei colleghi che si davano da fare per questi famigerati diritti. È vero. Ogni tanto mi trovavo nell'ufficio del dottore per scrivere al computer i documenti che mi dettava e mi capitava di sentire qua e là qualche cosa, ma ero troppo concentrato a scrivere per sentir parlare di lavoratori troppo agitati e lavoratori che invece collaboravano. Quindi dovrei essere sorpreso anch'io per quello che è successo negli ultimi mesi. Lo spiacevole episodio, come l'ha definito lei stesso, di quell'operaio rimasto gravemente ferito alla schiena. E di quell'incidente che è accaduto nel reparto 7. Non erano mai giunte lamentele da quel reparto. I sistemi di sicurezza erano a posto, le condizioni di lavoro a norma di legge, i delegati sindacali, poi non si erano mai lamentati di nulla. Basterebbe non aver letto la relazione in cui c'era scritto che nel reparto 7 erano stati disattivati i blocchi di sicurezza alla macchina per evitare che si inceppasse quando la si faceva funzionare oltre il limite massimo di giri al minuto per aumentare la produzione. Basterebbe non aver sentito la discussione che c'era stata 3 giorni prima dell'incidente tra l'operaio addetto a quella macchina e lei, dottor geometra cavaliere. Le lamentele a proposito del modo di utilizzare quel macchinario, la sua pericolosità e le sue risposte riguardo l'importanza di un posto di lavoro per mandare avanti una famiglia, per crescere dei figli. Purtroppo per lei io ho sentito e ho visto. E dato che non ci tengo ad interpretare la parte di nessuna delle 3 scimmiette, beh, mi toccherà di parlare. Prima di infilare la relazione nel trita documenti, ne ho fatto una copia. E la discussione tra lei e l'operaio è incisa su una cassetta. L'ho realizzata utilizzando il registratore con cui lei incide i documenti che io poi le trascrivo. Vengo con questa mia per annunciarle che ho inviato tutto alla procura, che si occuperà di denunciarla. Ora, io so benissimo che proprio grazie alla legge lei non vedrà mai un carcere dall'interno. Ma grazie a queste prove metteranno fine alla sua carriera e alla sua impeccabile figura civile. Lei è finito. Io ovviamente verrò a fondo con lei, in quanto suo segretario, che vuole che le dica. In qualche modo anche noi moriremo sul lavoro. Ma io almeno avrò ancora il coraggio di guardare in faccia i miei figli. Distinti saluti. Adesso che devo prendere le misure di un ascensore per sapere se lo posso utilizzare, la larghezza dell'apertura, se le porte sono scorrevoli o se ci sono le 2 ante che si aprono verso l'interno, o se, scherzo di pessimo gusto o frivola distrazione dell'architetto, ci sono dei gradini per arrivare all'ascensore. Me lo dicevano. Adesso che devo prendere il taxi ogni volta che devo spostarmi, perché gli autobus attrezzati per quelli come me sono rari. Me lo dicevano i miei colleghi. Adesso che la gente mi guarda come se fossi un extraterrestre, un alieno, comunque qualcosa... Scusate. Qualcuno di estremamente diverso da loro. E mi parla come se fossi per metà sordo e per l'altra metà scemo. La loro commiserazione non serve ad altro che ad ammansire i loro stessi sensi di colpa nei confronti di questo povero... diversamente abile. Attento! Adesso che passeggiando per strada, se si può definire passeggiare il mio deambulare su quattro ruote, ricevo le scuse dei passanti se inavvertitamente li urto. E più l'impatto è violento, più forte è il dolore che gli provoco con la mia sedia, maggiore la cortesia con cui mi porgono le loro assurde scuse. Io infatti portavo il caschetto. Adesso che periodicamente devo sottopormi a delle visite, perché i medici dell'INAIL possono valutare se il mio livello di handicap ha subito delle variazioni, in modo che io possa periodicamente ricordare non solo che sono uno storpio, ma che storpio rimango, nonostante il passare delle stagioni. A che cazzo serve un caschetto di protezione se una trave d'acciaio ti cade sulla schiena? Adesso che mi vergogno di incrociare lo sguardo dei miei figli, perché non voglio che vedano gli occhi di un uomo inutile, di un padre a metà. E devo anche ringraziare il cielo. Adesso che al suono della sveglia mi sveglio ogni mattina cercando di alzarmi da solo, illudendomi che sia stato tutto un orrendo incubo e che posso finalmente tornare al mio cantiere con i miei colleghi. Il mio collega del reparto 7 non è stato fortunato come me. Adesso sono morto sul lavoro, non quando quel maledetto trave mi ha spezzato la schiena. Il tonfo sordo si diffuse nella pianura circondata dall'orizzonte. La scia di fumo bianco, impercettibile alla luce del sole, salì quasi a perdersi fra le nuvole. Poi il lampo, un batuffolo grigio e in ritardo l'esplosione. Da qualche parte in quell'immensa distesa di campi coltivati a grano turco, a grano, a viti, in un punto di quella coperta multicolore posta a riscaldare la pelle viva della terra, si stava annunciando una festa, a colpi di tonanti. L'esplosione pirotecnica, col suo duro urlo di gola, richiamava tutti gli abitanti delle campagne ai festeggiamenti che stavano per iniziare. Quando il suono si fu completamente dissolto nell'aria, alle sue spalle l'uomo sentì bisbigliare una voce distante. Sembrava una cantilena, una litania. Si voltò e vide che, circondati dai miseri resti di pareti di cemento, che disegnavano un grande rettangolo, spuntando qua e là dall'erba più alta, stavano un centinaio di uomini e donne, disposti in due gruppi, da una decina di file ciascuno. Questi formavano un'assemblea del tutto simile a quelle che si possono osservare in una chiesa, durante una messa. E proprio come in una messa funebre, di fronte a questa gente stava una bara, scoperta, da cui si vedevano spuntare le spoglie di un uomo. A distinguere l'immagine da quella di una messa cattolica era l'aspetto dell'officiante la cerimonia, Un uomo robusto, alto non meno di 2 metri, vestito con una tuta da operaio completamente nera, pulita, ben stirata, con un quadratino di diverso colore proprio al centro del collo. Ma non uno scorcio di candore come usano i ministri di Cristo, bensì rosso, di un rosso vivo, guizzante. E nell'immensità di quella figura scura il colletto sembrava amplificarsi anziché perdersi. I gesti dello strano pastore erano diversi da quelli di una cerimonia tradizionale. Le braccia si alzavano e si stringevano in abbracci che parevano catturare tutto il cielo attorno a quelle moderne rovine. Le sue mani forti compivano movimenti larghissimi, simmetrici, i segni delle benedizioni, continui, ossessivi, descrivevano nell'aria croci gigantesche. Sul misero tavolo da cucina che doveva servire d'altare non c'erano coppe dorate o stensori lucenti o ricchi calici, ma un tozzo di pane ed un fiasco impagliato, colmo di vino. L'uomo, catturato dal quadro che gli si poneva di fronte, si avvicinò ai 2 gruppi di persone e si mise a camminare lentamente per trovare un posto in cui sistemarsi, per non rimanere isolato. Ma cercava invano con lo sguardo tra le file serrate e precise e non aveva modo di perdersi in mezzo. D'un tratto si sentì tirare per la giacca. Voltandosi non vide, come aveva immaginato, qualcuno che lo invitava a non disturbare la cerimonia in quel misterioso luogo di culto, ma trovò una scimmia che lo stava fissando. E non fu la visione di uno scimpanzé in quella cattedrale a cielo aperto a spaventarlo, ma gli occhi del primate. L'animale lo fissava come se lo conoscesse, come se stesse per parlargli. Lo scimpanzé lo teneva immobile con lo sguardo. L'uomo non riusciva a far altro che scuotersi ai brividi che lo prendevano alla schiena, alle ginocchia. Improvvisamente la scimmia spalancò la bocca e scoppiò in una terrificante risata, umana, ma stridula, acida, che amplificò in lui i brividi e i tremori che ora lo prendevano tutto. Alzò il capo, si guardò intorno. Ora tutti lo stavano fissando, torvi in viso, minacciosi. Poi gli sguardi cupi si sciolsero in un sorriso che subito si trasformò in un ghigno e sfogò in un'unica risata. Si misero a ridere di lui. Ora le risate erano svariate, grasse, sguaiate, alte, componevano un coro raccapricciante. Altri tonanti nel cielo, esplose ad annunciare la festa, non fecero che gettare l'uomo, ormai in preda al panico, nel delirio totale. Correndo verso il punto da cui era venuto, si trovò di fronte improvvisamente una donna che gli sbarrava il passo. Faccia a faccia, quasi con le labbra fra le sue, la donna muoveva la bocca come se stesse pregando. Lo guardava con occhi dolci, materni, ma in quelle parole che lui non riusciva a comprendere per il fragore delle risate che ora quasi lo stordiva, percepiva la premonizione di un drammatico accadimento, di una sentenza definitiva. Nel fragore delle risate e dei tonanti che continuavano ad esplodere sempre più frequenti, assomigliando ormai quasi più all'annuncio di una guerra che di una festa, l'uomo scappò verso l'altare, ma lo trovò avvolto dalle fiamme. Il sacerdote interruppe le sue litanie, spalancò gli occhi che teneva chiusi in stato di estasi, lo fissò minaccioso e puntò contro di lui un indice inquisitorio. Dal fuoco che divorava l'altare saltò fuori una sagoma nera. Nonostante si trattasse di poco più di un'ombra, l'uomo riconobbe la scimmia che lo aveva terrorizzato, che gli si gettò contro come se stesse seguendo l'ordine imposto dal gesto del sacerdote, e gli strappò la spilla di cavaliere del lavoro che aveva sulla giacca. A sovrastare il caos di suoni distorti che ora invadevano l'aria, partì una sirena di quelle che danno inizio ai turni nelle fabbriche, non dissimili dal suono lancinante che annuncia i bombardamenti aerei. L'urlo della sirena, straziando l'aria, lo svegliò. Nel letto l'uomo, inebetito dal sogno, respirava affannosamente nel bagno di sudore in cui l'incubo lo aveva precipitato. Cercò di calmarsi. Vide sua moglie, ancora addormentata nel letto. Poi vide la sveglia. 10:07. L'uomo si alzò e incominciò a prepararsi per andare al lavoro, per andare a dirigere la sua impresa. Ho trovato questa foto nel cassetto di un vecchio comò, in soffitta. Stava in mezzo a un mazzo di tovaglie, quelle che mamma ha vinto collezionando i punti dei biscotti. Ce n'avrà avute una ventina, tutte col marchio della marca, e con l'anno ricamato in corsivo. 1987, 88, 89, ce l'aveva tutte, precise, stirate, tutte in ordine, mamma è una precisa. E tra una tovaglia a fiorellini e una con un orrendo decoro natalizio rosso dorato è spuntata questa fotografia. Il cotone delle tovaglie ha protetto la foto dal tempo, non è ingiallita, non si sono arricciati gli angoli, non si è sgualcita in nessun modo, però si vede che è una foto di qualche anno fa. L'uomo nella foto è mio padre, mi tiene in braccio, io sono quello più piccolo, io ci avrò avuto 2-3 anni, mio padre ne aveva 34. Nella foto mio padre è ancora giovane, è un bell'uomo, d'altronde la cerqua non fa le melarance. E da giovane, a forza di ascoltare Celentano, chi non lavora, no? Si sarà convinto, perché lui, insomma, quella cosa lì della canzone la faceva, cioè non è che io e mio fratello siamo nati sotto un cavolo, non è che ci ha portati la cicogna, perciò siccome... Insomma, diciamo, doveva lavorare tanto, ecco, sempre. Io infatti non ho un'immagine di mio padre senza il suo lavoro. Lui che guida il camion, lui che scarica i pacchi dal camion. Io mi alzavo alle 7 per andare a scuola e mia madre già stava sola nel letto. Non me lo ricordo in ferie, non me lo ricordo a riposo, in malattia, mai. Per tutta la vita. Ogni mattina partiva per quel viaggio da cui in realtà non riusciva mai a tornare del tutto. E infatti ultimamente c'aveva voglia di fermarsi, di riposare, di tornare a casa. Il suo sorriso era diventato stanco, si era appesantito. Solo che non ha avuto il tempo di fermarsi. Però ci ha spedito una cartolina dal suo viaggio, questa foto. Quando nostro padre ha avuto l'incidente, il dottor geometra cavaliere si è presentato di persona a casa nostra. Ha portato la mamma le sue più sentite condoglianze, le ha detto: signora, che tragedia, che perdita, ma come faremo? In qualche modo devono aver fatto, perché la fabbrica non ha chiuso. E non ha chiuso neanche quando hanno arrestato il dottor geometra cavaliere. Che se l'avessero messo qua in cella con noi, magari passeremmo un po' meglio il tempo. Abbiamo già provato a vendicarci, E non è servito a niente. Babbo sempre sottoterra sta. Vabbè, l'ora d'aria è finita, va? Buonanotte.